a dietro Begeno. Al mulino. Al mulino. Tu sei? Pareti fatte in sassi. Un dipinto più o meno di Maria. Di Maria con Gesù bambino. E con dopo una specie di, c'è anche una specie di fattoria con degli asini e pulcini e galline.